Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Industriali e sindacati insieme per contrastare il tragico fenomeno degli incidenti sul lavoro a Pordenone. La scuola per la sicurezza che hanno creato insieme oggi ha rilanciato la propria attività con nuove iniziative. Chiedono più investimenti nell'edilizia pubblica e servizi residenziali migliori. Gli studenti universitari protestano a Udine, come i colleghi di molte città italiane, oggi hanno allestito delle tende sotto la casa dello studente. Arrivano a Trieste ma poi scappano dalle comunità di accoglienza per proseguire nel loro viaggio. È la storia che accomuna molti minori stranieri non accompagnati e che rientrano nelle statistiche dei bambini scomparsi, di cui oggi ricorre la giornata internazionale. E per far comprendere cosa significhi lasciare la propria casa per un destino ignoto, in una scuola media triestina alla divisione Giulia i ragazzi recitano un testo teatrale che immagina una fuga dall'Europa a causa di guerre e malattie. 36 anni di vita in comune, nelle pagine del libro intitolato Una storia d'amore di Lucida Follia a mio marito Lelio Luttazzi, scritto da Rossana Luttazzi, che abbiamo intervistato oggi pomeriggio alla presentazione a Trieste. Da Trieste Loves Jazz all'International Shorts Film Festival, dal Trieste Summer Rock Festival agli spettacoli teatrali e ai concerti sinfonici, presentato il calendario di Trieste Estate. Basket, l'ultimo derby a Udine stasera, si decide chi tra la APO e la Gesteco Cividale approderà alle semifinali playoff di A2, un confronto anche tra due presidenti che da amici sono diventati avversari. Di nuovo buongiorno da Maria Spezia e Andrea Cobri in studio per questa seconda edizione del giornale radio regionale. Il drammatico aumento degli incidenti mortali sul lavoro in regione pone la questione di un efficace contrasto del fenomeno. A Pordenone industriali e sindacati hanno creato una vera e propria scuola per la sicurezza sul lavoro che questa mattina ha presentato le proprie ultime iniziative. La carta di Lorenzo, un documento di poche pagine semplice che la madre e il padre di Lorenzo Parelli, il giovane diciottenne morto in fabbrica nel gennaio 2022 durante l'alternanza scuola-lavoro, presentano come guida del corso che a settembre coinvolgerà tutti gli istituti superiori di Pordenone. Lo dice Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico, annunciando l'obiettivo morti zero sul lavoro entro 2 anni. Non si può, sottolinea il prefetto Domenico Lioni, uscire di casa per andare al lavoro e non fare ritorno. Corsi di formazione sulla sicurezza che si fondano su comportamento e responsabilità, principi che non hanno bisogno di mediazione tra datori di lavoro e organizzazioni sindacali, è quanto aggiunge Maurizio Marcon della CGIL di Pordenone. Tutti d'accordo sul percorrere una strada comune per raggiungere l'obiettivo. Dino Parelli, il papà di Lorenzo, spiega come sia fondamentale, prima di tutto, l'attenzione da rivolgere alla persona quando, per la prima volta, si ritrova in un mondo sconosciuto. Quello del lavoro. Pordenone, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Arriva a Udine la protesta degli studenti universitari fuori sede che chiedono servizi residenziali migliori e investimenti nell'edilizia pubblica universitaria. Stamattina è stata organizzata una manifestazione in Viale Ungheria sotto il portico della Casa dello Studente. Hanno piazzato le tende e dicono che non se ne andranno prima che si è trovata una soluzione al problema della mancanza di un alloggio universitario pubblico a Udine. Gli studenti protestano anche nel capoluogo friulano, dopo Milano e altre città italiane. Le tende sotto l'ex Casa dello Studente, una Casa dello Studente chiusa nel 2017 perché non conforme agli standard minimi di sicurezza sismica, ma da allora non è mai stata trovata una soluzione definitiva. 1.200 euro all'anno in più per ogni studente che avrebbe dovuto trovare una soluzione nel privato oppure nei convitti convenzionati. Dal prossimo anno c'è anche un nuovo edificio, il Burgart in zona stazione ferroviaria, un edificio privato però, dicono gli studenti, che il pubblico prenderà solo in affitto, mentre i giovani chiedono che sia fatto appunto un investimento pubblico a lungo termine. Ovviamente questo deve mettere insieme non solo l'Agenzia per il diritto allo studio, ma anche la Regione e il Comune, perché chiaramente quello di Udine, quello di Viale Ungheria, è un edificio molto grande che rimane vuoto e inutilizzato ormai da 6 anni. Si apre dunque un nuovo capitolo della protesta degli studenti che è partita da Milano, un capitolo che include anche Udine. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Il Consiglio d'amministrazione di Assicurazioni Generali ha approvato le informazioni finanziarie al 31 marzo 2023 del gruppo. Nel primo trimestre dell'anno i conti segnano una forte crescita e confermano una posizione patrimoniale estremamente solida. I premi lordi sono in aumento a 22,2 miliardi, più 1,3% rispetto al primo trimestre 2022, trainati dalla robusta crescita del segmento danni, che ha fatto segnare un più 10,1%. Risultato operativo in crescita a 1.820 milioni più 22,1%, utile netto in significativo aumento a 1.229 milioni più 49,7%. Riconoscere l'impegno, la determinazione e la disponibilità dei lavoratori nel contribuire al risanamento aziendale è quanto chiedono le segreterie regionali di Filt CGL, Fit CISL e Will Trasporti alla dirigenza di Trieste Airport, dopo i buoni risultati di bilancio raggiunti dalla società di gestione. Per affrontare l'emergenza Covid e poi la crisi economica a causa del traffico limitato, l'azienda ha applicato in modo unilaterale una flessibilità oraria gravosa, contrariamente alle richieste dei lavoratori, scrivono i sindacati in una nota, chiedendo ora all'azienda di condividere gli utili con coloro che hanno maggiormente contribuito a ottenere questo notevole risultato. E la Fit CISL ha proclamato lo stato di agitazione per il personale della concessionaria autostradale Autovie Venete. Alla base della decisione, si legge in una nota, le relazioni industriali ridotte all'osso e decisioni unilaterali dell'azienda sull'organizzazione del lavoro. Il sindacato lamenta in particolare l'impiego di personale su più caselli durante lo stesso turno e turni sottodimensionati rispetto alla situazione del traffico, soprattutto nei weekend e nei giorni festivi. Oggi è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. A Trieste il fenomeno riguarda soprattutto minori stranieri non accompagnati che fuggono verso altre destinazioni europee, ma ci sono anche ragazzi che scappano da disagi familiari o vessazioni. Per far conoscere il fenomeno e soprattutto le risposte delle istituzioni, in Piazza della Borsa la polizia ha allestito un punto informativo. Fate attenzione a chi vi contatta su internet o sulle chat e a condividere foto e informazioni personali sui social media. Lo hanno spiegato gli agenti della divisione anticrimine e di quella cibernetica della polizia ai ragazzi di alcune scuole medie triestine in occasione della giornata internazionale dei bambini scomparsi. In città nei primi mesi dell'anno sono stati una decina i casi di bambini residenti a Trieste scomparsi da casa o dalla comunità, poi rientrati nel giro di pochi giorni. Dietro all'allontanamento disagi familiari, ma anche adescamenti, cyberbullismo, revenge porn. Delfina Di Stefano, dirigente della divisione anticrimine della Polizia di Trieste. Lo scopo oggi di essere qui in piazza con i ragazzi, ma con tutta la cittadinanza, è quello di dire che i ragazzi, quando hanno delle difficoltà in casa o nella loro sfera relazionale, non devono sentirsi soli. A volte questo li spinge appunto ad andare via, naturalmente esponendosi a tanti pericoli. La maggior parte delle denunce di scomparsa, però, circa un centinaio, hanno riguardato minori stranieri non accompagnati, adolescenti, in arrivo soprattutto da Afghanistan e Pakistan, attraverso la rotta balcanica. Vengono affidati alle comunità in città e poi periodicamente, diciamo, si allontanano volontariamente da queste comunità alla ricerca di altre destinazioni, spesso all'estero oppure in altre città italiane. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. E per far capire cosa significhi per un minore scappare dal proprio paese per tentare di costruirsi un futuro migliore, a Trieste la scuola media Divisione Giulia ha costruito uno spettacolo teatrale in cui si immagina una fuga dall'Europa verso sud-est, una rotta balcanica al contrario. Noi delle classi di spagnolo andiamo a Siviglia! Olè! Molto più figo! Olè! Storie di ordinaria adolescenza, la scuola, le feste, le prime cotte, poi irrompe l'imponderabile. La cronaca estera ci ha già insegnato che succede all'improvviso, senza appello, come in Ucraina. Il testo immagina di essere in guerra, della danese Jean Teller, già consulente politico per Unione Europea ed ONU, rielaborato da Paola Gessi, professoressa d'italiano della scuola media Divisione Giulia, estremizza. Il conflitto coinvolge l'intera democratica Europa. I valori fondanti dell'Unione si disintegrano, la guerra diventa l'unico elemento comune. Bombe dunque e malattie, freddo, fame, fame, si può solo scappare e questi ragazzini impauriti ma sempre pieni di speranza prendono l'unica via possibile, quella verso est, la rotta balcanica all'incontrario, dall'Italia, dal Friuli Venezia Giulia, verso il Medio Oriente. Dalla novella breve della Teller, Paola Gessi ha elaborato una sceneggiatura per insegnare ai suoi ragazzi competenze trasversali. Il percorso freddo lo facciamo come insegnanti sull'educazione civica, sui testi di storia, di geografia, però il vero percorso, quello caldo, quello che coinvolge non solo la mente ma anche il cuore, può avvenire anche attraverso il teatro. Non è facile per dei dodicenni un tale rovesciamento di ruoli e prospettive. Non è semplice entrare in profondità in una storia che non ha un lieto fine. Eppure resti sempre uno straniero. E pensi un giorno a quando potrai tornare a casa. Ma dov'è casa? Francesca Vigori, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca, un automobilista di 27 anni ha perso il controllo della vettura ed è finito contro un albero ferendosi in modo grave. È accaduto alle prime luci dell'alba verso le 5 a Camino al Tagliamento in località Gorizzo. I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere il giovane che ferito era rimasto incastrato nell'abitacolo, praticando poi le manovre salvavita fino all'arrivo del personale sanitario. Il ferito è stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni sono gravi. Il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, ha diramato oggi un'ordinanza urgente che limita la navigazione sul fiume Noncello e vieta l'accesso sulla sua riva sinistra per la creazione di una fessurazione nel terreno di circa 15 metri di lunghezza e 5 di larghezza, in corrispondenza di un'ansa del fiume a monte dell'imbarco di via Carniele fino alla confluenza con il fiume Meduna. Coinvolti nell'operazione di messa in sicurezza i vigili del fuoco, il comando di polizia locale e gli uffici tecnici del comune di Pordenone. Lo smottamento rischia di compromettere la sicurezza della navigabilità e le attività didattiche dell'Associazione Gommonauti Pordenonesi. 12.42, passiamo al meteo, il cielo in prevalenza sereno sulla regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 22,5 gradi, a Gorizia 24,5 gradi, a Pordenone 24 e a Udine 23,5 gradi. In area montana Tolmezzo 20, Tarvisio e Forni di Sopra 17 gradi, Piancavallo 13, in quota sul Monte Zoncolan 10 gradi e sul Monte Lussari 8,5 gradi, sulla costa Lignano 24,5 gradi e a Grado 24. Le previsioni dell'ARPA per le prossime ore: avremo cielo sereno poco nuvoloso, sulla costa la bora sarà in attenuazione con probabili venti a regime di brezza sulle zone occidentali. Le associazioni ambientaliste sono preoccupate per l'impatto dei lavori eseguiti sul Monte Lussari per consentire lo svolgimento della tappa del Giro d'Italia di ciclismo di dopodomani e per questo motivo le delegazioni regionali di Italia Nostra, Lega Ambiente e WWF hanno scritto al prefetto di Udine e alla soprintendenza. Oltre ai forti dubbi sull'opportunità di utilizzare risorse della protezione civile e del fondo Vaia, dove non sono caduti alberi, per cementificare circa 8 km della strada che sale dalla Val Saisera, tre sono in sostanza gli aspetti critici su cui viene richiesto un accertamento. Innanzitutto la gestione dell'evento, che attirerà migliaia di appassionati in spazi limitati e quasi privi di aree pianeggianti, oltre alla sicurezza messa a repentaglio, secondo gli ambientalisti, in caso di pioggia. E infine la mancata osservanza del piano paesaggistico regionale, che vieta di asfaltare e allargare strade nell'area vincolata. E infine le disposizioni della soprintendenza, che avrebbe autorizzato solo la pavimentazione con un materiale ecologico e drenante. E in occasione della cronoscalata Tarvisio-Monte Lussari, l'azienda sanitaria per il Friuli Centrale ha disposto un potenziamento del piano sanitario. Sabato l'elisoccorso sosterrà nell'area attigua all'uscita autostradale di Ugovia con equipaggio operativo dalle 8 alle 20. Ci sarà un'ambulanza alla stazione di partenza della Cabinovia Lussari fino alle 11 e poi vicino al centro abitato di Valbruna fino alle 20. Altre due ambulanze saranno pronte a partire dall'uscita autostradale di Ugovizza e sulla sommità del Monte Lussari. Attivati anche medico e infermiere nella struttura della protezione civile e due mezzi quad lungo l'ultimo tratto del percorso dotati di defibrillatore. Previste inoltre squadre del soccorso alpino e di volontari della protezione civile civile con defibrillatore posizionati ogni 300 metri circa nel tratto terminale della tappa aperto al pubblico. Passiamo allo sport, il basket, sfida sportiva attesa, quella di stasera alle 20 al Palacarnera di Udine, dove si disputerà la gara decisiva, la quinta, tra Udine e Gesteco Cividale per l'accesso alle semifinali promozione della serie A2 di basket maschile. Una sfida che vedrà di fronte anche due presidenti che nel recente passato erano uno di fianco all'altro. Un presidente, c'è solo un presidente, ma in realtà sono due adorati dalle rispettive curve e sportivamente parlando non si sopportano. A Pucci Vidale anche Alessandro Pedone contro Davide Mikalic, il primo imprenditore marchigiano trapiantato in Friuli, è stato tra i fondatori e sponsor della società che raccolse l'eredità dell'ex Snyder dopo il fallimento. Dopo una retrocessione il primo anno chiamò dietro alla scrivania della neonata APU proprio il secondo. Subito la promozione in B, poi la lunga strada per arrivare ai vertici della 2. Una volta venduta la sua impresa di servizi, Pedone si è impegnato sempre di più nel suo progetto sportivo. Ha investito tantissimo, vinto titoli minori, ma la promozione in A finora è sfumata due volte. Vulcanico, appassionato, il presidente bianconero aiuta a scegliere i giocatori e a volte vorrebbe essere in panchina. È piuttosto frequente vederlo gesticolare e comunicare con il suo allenatore. Questo lato del suo carattere è costato il divorzio da Mikalic nel 2020. Nel basket udinese dagli anni 80, tifosissimo di tutto lo sport friulano, tanto da avere, durante la serie della sua creatura, proprio contro la sua città, lo status su WhatsApp con scritto Ale Udin. Dal capoluogo lo hanno seguito praticamente tutti nel suo folle volo, dove ha creato qualcosa di difficile da raccontare con una tifoseria che lo adora. A bordo campo si dispera, esulta, si lascia andare assieme ai suoi amici che a vario titolo collaborano con lui a Cividale, che è nata dal nulla attorno al Palasport ed è arrivata a una gara 5 di playoff di A2 in soli 3 anni, grazie anche al contributo di qualcosa come 190 sponsor, un esercito che finanzia il progetto di quello che è stato chiamato lo scisma d'Oriente. I due, s'avanza a dir, si rispettano ma si salutano a malapena. Non succederà, ma che bello sarebbe vederli seduti vicini per i 40 minuti di gara 5 con telecamera dedicata. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Gli appuntamenti, prima giornata per la 19ª edizione del Festival Goriziano è storia, quest'anno declinato sul tema della donna. In programma, a partire dalle 15, al Tergowski Dom, incontri sulla figura del medico legale, su Carolina Luzzatto, la goriziana che per prima diresse un giornale, e sulle donne al lavoro, dedicato all'uguaglianza di genere professionale. In locandina anche il concerto dei Free Voices, su percorsi di riflessione al femminile, al Teatro Verdi alle 20:30, e al Kinemax la proiezione di Gilda con Rita Hayworth alle 17:30 e di Holy Spider, sguardo sulla condizione femminile in Iran, alle 20:30. Si intitola C'era una volta la politica, il libro che Pier Ferdinando Casini presenta oggi con il presidente di Confindustria Alto Adriatico Agrusti a Pordenone, all'Auditorium Zanussi della Casa dello Studente, alle 18, sotto la lente la storia del politico dagli inizi negli anni 70 a Bologna, passando per Tangentopoli alla presidenza della Camera dal 2001 al 2006. Da pochi giorni è stato pubblicato l'album Oltre il Blu, a cui hanno collaborato Stefano Bollani, Luca Barbarossa, Fabrizio Bosso e Drusilla Foer, con partiture originali e arrangiamenti di Lelio Luttazzi, artista triestino scomparso nel 2010, che è stato cantante, pianista, direttore d'orchestra, conduttore televisivo e radiofonico, oltre che scrittore, attore e regista. All'artista triestino è dedicato anche il libro Una storia d'amore di lucida follia a mio marito Lelio Luttazzi, scritto dalla moglie Rossana, in cui sono raccontati 36 anni di vita in comune. Il libro sarà presentato dall'autrice a Trieste alla libreria Lovat alle 18. Abbiamo intervistato l'autrice per chiederle di raccontarci un aspetto meno noto del marito. Io 36 anni di vita non ho mai chiesto, pensi lei, a mio marito dove erano sepolti i suoi genitori. Non l'ho mai saputo, me lo sono chiesta tantissime volte e non sono mai riuscita a capire perché io non gliel'abbia mai chiesto e perché mio marito non me l'abbia mai detto, no? Perché poi si parlava anche così a volte di sua mamma, i racconti che era rimasta vedova, quindi insomma di questo si parlava, dell'educazione molto severa, molto rigorosa che lei aveva avuto, un'educazione legata alle regole. E poi per un destino tragico lo sono venuta a sapere e quindi anche lì ci sono insomma degli episodi che io ho vissuto qui a Trieste che riguardano proprio il papà e la mamma con i miei viaggi in processione a trovare la mamma e il papà, cercando da loro anche un conforto nella mia follia di quella tragedia che avevo attraversato e che stavo attraversando, che è durata moltissimo. Se io le chiedessi di definire suo marito con tre aggettivi, come mi risponderebbe? Era uno spirito libero e libertario, era un uomo molto colto, di grande rigore intellettuale, non era mai ovvio, leale, intelligente, detestava l'esibizionismo, la vanità e la sua frase proprio che rimase classica era ed è sempre stata: sono un pessimo spettatore del protagonismo altrui. Quindi direi un grande senso dell'umorismo, un uomo di grande eleganza nei modi, nel porsi. Io a lei chiedo anche, è un difetto di suo marito? Ah, mi coglie impreparata. Oltre 230 eventi per la 20ª edizione di Trieste Estate, la rassegna voluta dal Comune di Trieste. L'estate triestina inizia il 3 giugno attraverso concerti, spettacoli di prosa, operette, rassegne in 40 luoghi della città, si porterà avanti fino al 9 settembre. Uno dei palchi principali sarà allestito in Piazza Verdi, che ospiterà un tributo a Ezio Bosso, e poi i concerti dei Yellow Jackets, Southern Percussion, Oxygen. Il comune, che in Trieste Estate ha investito 1.200.000 euro, di cui 250.000 proventi dal gettito della tassa sul turismo, ha voluto dedicare il castello di San Giusto solo ad eventi che riempiano effettivamente la capienza del piazzale delle Armi con 2.000 persone. Al castello quindi si esibirà Federico Buffa e poi Alice con un tributo a Battiato e ancora Luca Barbarossa e poi Carmina Burana eseguiti dall'orchestra e coro del Verdi. Trieste Estate al suo interno 6 rassegne storiche cittadine, tra cui Short TS e Trieste Loves Jazz. Almeno 90 eventi sono in calendario nei rioni periferici, nella rassegna fuori centro, da Opicina, Barcola, Servola, Altura e Valmaura. La direzione artistica della prosa è stata affidata a Lino Marrazzo, il direttore artistico musicale dell'evento è Gabriele Centis. Trieste, Nada Cioc, TGR Friuli Venezia Giulia. In occasione del 40° anniversario della TUAS, l'Accademia Mondiale delle Scienze per il Progresso Scientifico dei Paesi in Via di Sviluppo, la nuova presidente Karaysha Abdul Karim, epidemiologa sudafricana nota per le ricerche in materia di HIV e malattie infettive, condurrà una conferenza sull'importanza di far progredire le conoscenze per migliorare la salute a Trieste, all'Hotel Savoia Excelsior Palace, in Riva del Mandracchio, alle 17. Le nuove frontiere dell'innovazione e il rapporto tra creatività umana e intelligenza artificiale, tra conflitto e collaborazione, al centro di un evento organizzato nell'area Science Park di Trieste, dove sono stati premiati i lavori universitari di settore. Tra i relatori Domenico Golzio dell'Ufficio Brevetti Europeo, che interverrà nel dibattito a partire dal divieto, già stabilito anni fa, di attribuire brevetti all'intelligenza artificiale, consentendo l'attribuzione a sole persone fisiche. L'intelligenza artificiale viene spesso usata per nelle simulazioni di, ad esempio, di una galleria del vento, eccetera. In realtà l'Ufficio Europeo Brevetti ha deciso 2 anni fa di accettare le invenzioni che avvengono nel mondo virtuale, quindi una simulazione, un'analisi di dati, che però abbia un'applicazione poi pratica. Quindi ad esempio una galleria del vento con una simulazione dell'intelligenza artificiale che mi permette di progettare un'ala di un aereo più efficiente, questo sicuramente è brevettabile. Quindi in realtà noi non stiamo bloccando quella parte, ma stiamo bloccando semplicemente l'idea della proprietà attribuibile all'intelligenza artificiale. Quello che noi consideriamo inventore è la persona che maneggia questa intelligenza artificiale, quindi c'è una via di fuga che ci permette comunque sempre di arrivare a un brevetto. Tralasciando la questione dell'etica, il caso tipico è quello dell'automobile, che deve decidere se investire un bambino o una persona anziana. In sostanza però i ricercatori, gli scienziati avranno sempre più interazioni con l'intelligenza artificiale. Sì. Questo di sicuro. I computer, i microprocessori, io li ho sempre considerati il nuovo cacciavite che un ingegnere deve utilizzare. Per me l'intelligenza artificiale è il cacciavite del futuro, però sarà sempre l'uomo che dovrà manovrare questo cacciavite. E poi comunque un altro aspetto, almeno in questa fase, poi magari in futuro sarà differente, l'intelligenza artificiale ragiona, tra virgolette, su dati e informazioni che noi abbiamo prodotto. È online la nuova edizione della mappa parlante della carne e dei suoi musei. Sale a 16 il numero delle esposizioni e musei presenti, 9 in più. La mappa parlante è disponibile online all'indirizzo radiomagica.org, riferimento dell'omonima fondazione nata per abbattere le barriere all'accessibilità e assicurare il diritto all'ascolto dei bambini, dei ragazzi e delle persone con difficoltà e oppure con disabilità. Attraverso questo strumento l'obiettivo è quello di potenziare la divulgazione del patrimonio culturale della Carnia, motore di promozione e sviluppo del territorio. Alle 12.55 si chiude questa edizione del giornale radio regionale, redatta e condotta in studio da Maria Spezia e Andrea Covre. È andata in onda grazie alla collaborazione tecnica di Tommaso Vinoni e Roberto Cavallari. In redazione ha collaborato Cristina Polselli. Grazie per la vostra cortese attenzione e buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.